La ragazza che studiava medicina per me oggi era tutte quelle cose che potevano essere e non sono state. Gli incontri che non sono diventati niente, le promesse non mantenute, gli accordi che non abbiamo fatto e gli impegni che non ci siamo presi. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, è il 21 di marzo del 2011, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Personalmente sono cintura nera di cose incompiute. Innumerevoli volte nella mia vita ho iniziato qualcosa e poi l'ho abbandonato a metà, o magari neanche a metà, a un terzo, a un quarto. Però non di tutte le cose che ho lasciato incompiute sento la malinconia, anzi, in realtà quasi per nessuna. No, anzi, di alcune sì, tipo il corso di arrampicata, ad esempio, di un lavoro che mi piaceva e che avevo iniziato qualche anno fa, del Conte di Montecristo, che ho lasciato a pagina, credo, 300-350. Adesso dovrei iniziare da capo. E poi un puzzle che raffigurava l'Amerigo Vespucci, a cui mancavano tutti i tasselli centrali. Di fatto però non sono tutti dei rimpianti. Il più delle volte sono semplicemente delle riflessioni, delle considerazioni. La cosa strana però è che oggi, a distanza di anni, se io riguardo tutto quel mucchio di roba lì, quelle cose che ho iniziato e non ho mai concluso, in ognuna già ci vedo i sintomi della fine. In ogni inizio c'è già qualche traccia di come sarebbe finita. Ad esempio, quando ho iniziato a fare karate dopo aver visto Karate Kid, l'ho capito col tempo che quelli che decidono di fare una cosa perché l'hanno vista in un film sono destinati al fallimento. Oppure quando mi sono messo a seguire il corso di chitarra perché pensavo di diventare un musicista e scrivere canzoni da cantare in acustico, non immaginavo che mi sarei fermato al giro di do. Quando ho provato a scrivere un libro e mi sono bloccato alla terza pagina, con la presunzione però di essere capace di farlo ma di non avere il tempo per farlo. Ecco, queste sono tutte cose che mi ricordano quel puzzle, quello dell'Amerigo Vespucci. Me l'avevano regalato perché una volta avevo detto che forse volevo fare l'Accademia Navale. Non era vero, non la volevo fare, però lo capì solo qualche mese dopo. Eppure il puzzle lo cominciai lo stesso. Però nell'immagine si vedeva giusto tutto il mare intorno e un grande buco di tasselli mancanti proprio nel centro, dove c'erano lo scafo e le vele. Ecco perché oggi, ripensando a quei momenti lì, a quei monconi di cose incompiute, io non provo nessun rimorso. Penso che se ho abbandonato un libro a 100 pagine dalla fine, significa che quel libro non aveva più niente da dirmi. Oppure se non ho proseguito la mia carriera di equitazione, che avevo cominciato a 12 anni, voleva dire che io e i cavalli non avevamo niente da spartire. Ecco perché oggi vi chiedo di raccontarmi senza rammarico tutte le cose che avete iniziato e che avete lasciato a metà. Lo dico senza rammarico per il fatto che forse in quella fine inaspettata c'era già un barlume del vostro destino. Ecco, io sono qui. E il numero però è sempre quello. 80024 0024 con due T, perché mi segnalano che lo dico con una sola, per chiamare in diretta, eppure 349 238 6666 per mandare un SMS. Tutte le cose, tutti quanti hanno delle cose incompiute che hanno lasciato a metà e di cui hanno rimorso. Però non sarebbe male provare a ripensarci su e dire, boh, forse no, forse invece non vale la pena avere dei rimorsi, perché se non ho finito quella roba là, voleva dire che non era cosa. 80024 0024, Esther ad esempio, il corso di jiu-jitsu, il corso di maglia, il corso di knitting, il basso elettrico, Gabriele, io non ho mai lasciato incompiuto niente, anche i libri che non digerivo, ecco, su questo proprio non sono per niente d'accordo. Luca, faccio così con gli strumenti musicali, per la musica va per la maggiore, il piano, poi lasciato per le percussioni, poi per il basso elettrico e infine la chitarra. Massimo, avevo 10 anni, correva l'anno 1971, giocava a rugby nel CUS di Milano, esperienza fantastica, ai tempi molto avanti, ero nella tre qua, ai tempi molto... Vabbè, ero nella tre quarti, credo voglia dire. Credo sia una parte del campo del rugby. Poi il maledetto calcio mi ha rapito e adesso il mio rimpianto è grande. Non sarei diventato un campione, ma sportivamente mi sono impoverito. Poi ce n'è un altro. Chiara, eccola qua. Ho spesso lasciato incompiuti i compiti a casa. Parlo proprio di compiti della scuola, eh. Ho cominciato presto, alle elementari. Cominciavo un tema, scrivevo quattro righe, poi mi stufavo e giravo pagina. Il giorno dopo lo stesso. A scuola dicevo alla maestra che mi ero dimenticata il quaderno a casa. A un certo punto la signora Renata si è arrabbiata, mi ha fatto il cazziatone, ma non è servita molto, perché ho continuato alle medie, al liceo e anche all'università, affinando pure la tecnica. Non so se c'è una tecnica da affinare per lasciare i compiti a metà. Se ce l'hai, ti prego, Chiara, Chiara, raccontacela. Però non solo di cose terrene vorrei parlare oggi, anche proprio di questioni riguardanti un'amicizia, ad esempio, che era incominciata e che poi è finita troppo presto, perché vi siete trasferiti, ad esempio, perché si è trasferito lui, o quelle cose che in nuce sembravano poter diventare qualcosa e che quando ci pensate ancora adesso un pochettino vi mancano. Vi manca più che altro la possibilità che, che non vi siete concessi di continuare. Parlo di rapporti, parlo di lavori. Lo dico perché oggi è finito questo mese di lavoro in biblioteca. Molti di voi mi hanno scritto chiedendosi se era vero oppure no. Addirittura alcuni mi hanno detto che era denunciabile. Comunque sia, questo mese è finito. È stato un mese in cui mi sono messo a servizio di un amico che non poteva più stare in quella biblioteca. Io semplicemente ci sono andato praticamente quasi tutte le mattine, non sempre, e davo una mano lì. Ecco, oggi quella roba lì è finita e quindi vi racconto un pochettino quella sensazione, la sensazione di averla lasciata incompiuta. Però prima volevo leggervi un'altra. Eccolo qua, Lorenzo. Il corso di cinese è rimasto incompiuto. Ora, a parte qualche frase che ancora ricordo, qualche carattere che riesco a leggere, non ci capisco una mazza. 5 anni buttati? No. Prima o poi, di sicuro, comincerò. Lorenzo, se proprio ne sei convinto, 800240024 349-238-6666, voi, ma prima io. E come tutto, prima o poi, anche il lavoro in biblioteca finisce. Non mi è mai capitato di lavorare a qualcosa che fosse per tutta la vita, o quantomeno per quel tot di anni che fanno dire a chi li ha vissuti: ho fatto quel mestiere per tutta la vita. Volente o no, mi sono sempre ritrovato dentro a progetti che cominciavano e poi finivano. Che è normale, è giusto, forse pure sano. Però tutto questo prevedeva almeno due cose. La prima era la totale insicurezza nei confronti del futuro. Cioè, se so che una cosa finisce tra una settimana, tra un mese, un anno, io oggi non ci penso. Però sono pienamente consapevole del fatto che tra un anno sarò da capo. Che non saprò che cosa fare di me e del mio tempo, che non avrò la certezza per poter pianificare, per poter progettare. La seconda cosa invece riguarda la caducità del mondo, che detta così sembra una nota a pie pagina di un poema di Leopardi, però voglio dire, se da quando inizi a lavorare o a fare una cosa, qualsiasi cosa, e sai già che quella cosa finirà, è come se non ti concedessi mai la possibilità di immaginare un futuro per quello che fai. Tutto è un ciclo vitale, no? Tutto ha un inizio, un apice e una fine. Un po' come il cerchio della vita del Re Leone. Avete presente la scena in cui lo scimpanzé, quello vecchio e saggio in cima alla rupe, mostra a tutti gli animali il leoncino neonato e lì parte The Circle of Life di Elton John, che non ho mai capito perché in Italia era cantata da Ivana Spagna. Ecco, comunque, se tutto inizia e tutto finisce, c'è sempre un momento in cui uno si domanda che senso ha iniziare tutto per poi finire tutto. Poi per fortuna quel momento passa, E di solito passa quando arriva uno tipo Ciccio, o come Nonna Papera, che a sorpresa arriva in biblioteca con delle paste per festeggiare il tuo ultimo giorno di lavoro lì. Un mese, tondo tondo. Sono rimasto lì in quel posto ricavato da una vecchia cascina appena fuori la cerchia di Milano. Un posto dove la gente va per leggere, studiare, fare ricerche o anche solo per rimanere un po' in silenzio. Io non avevo nemmeno pensato all'ipotesi di festeggiare la fine di questo mese. Eppure quando Ciccio, verso mezzogiorno e mezza di stamattina, ha spostato 2 pili di libri dal bancone laterale e ha tirato fuori 2 vassoi di... o come dice mia nonna, 2 gabarè di paste, con salatini, una bottiglia di spumante e una coca da 1,5 litri, a me è salita una roba a metà tra l'allegria e la malinconia. Una cosa che mi ha segato a metà. Improvvisamente mi sono ritrovato ad una festa delle medie, con i pasticcini, le bibite gasate, le compagne con la frangetta e le tapparelle giù. Con quell'imbarazzo dei festeggiati che non sanno mai come gestire la gente che è arrivata lì apposta per loro. Si vergognano a dire qualsiasi cosa. Con la paura che la festa riesca male e che magari la ragazza che ti piace sparisca perché si annoia o peggio, si infratta a baciarsi con qualcuno ma senza lingua. E poi, mentre mi saliva questa onda di struggimento, mi sono accorto che quella piccola cosa stava finendo. E con lei stavano finendo molte altre piccole cose tutte insieme. What quella piccola cosa finivano molte altre cose deboli. Me ne sono accorto mangiando il salatino col würstel. Avete presente? Quello che non vuole mai nessuno, perché tutti preferiscono le pizzette. E invece quella sfoglia lì a forma di mini hot dog, quella con i bordi del würstel che spuntano, non viene mai presa in considerazione e rimane sempre alla fine sul vassoio mezzo vuoto pieno di briciole. Ecco, mentre lo addentavo è passata la ragazza che studia medicina, quella che ha riletto il giovane Holden 2 giorni di fila, quella non bellissima, eppure sì. Ecco cosa finiva. Finiva un mese di lavoro part-time in prestito in una biblioteca per dare una mano a un amico che voleva farsi una famiglia. Finiva la sveglia prestissimo la mattina, il cappuccino alla brioche nel bar di fronte. Finiva la noia dei momenti vuoti e la possibilità di leggere cose mai nemmeno pensate di poter leggere. E poi finiva la voglia di vedere lei, la ragazza che studiava medicina con una costanza mai vista prima. Quella che diceva 2 parole in croce e che quando faceva una pausa invece che fumarsi una sigaretta leggeva un libro. La ragazza che studiava medicina oggi per me era tutte quelle cose che potevano essere e che non sono state. Gli incontri che non sono diventati niente, le promesse non mantenute, gli accordi che non abbiamo fatto e gli impegni che non ci siamo presi. Tutte le cose che non abbiamo avuto il coraggio di approfondire, i pensieri che hanno solo sfiorato la nostra testa e che però hanno addolcito almeno un pomeriggio. Lei è venuta verso il bancone con i suoi occhiali e i capelli raccolti in uno chignon fatto con una matita. Teneva in mano un libro di anatomia, assaggiato un cannoncino. Era l'ultimo dei cannoncini, un po' mi è spiaciuto perché lo volevo mangiare io, l'avevo già puntato. Poi però lei, guardando Ciccio, ha chiesto che cosa si festeggiasse. Lui ha risposto che finiva una sostituzione breve. Lei ha chiesto di chi e poi mi ha guardato. L'ha fatto con un'espressione che non ho capito se era un dispiacere o un sollievo. E forse non era nessuna delle due. Poi mi ha fatto un sorriso ed è tornato in sala lettura. E dico, io sono felice comunque, Sono felice comunque perché faccio un lavoro che mi piace, perché vivo in una città che mi piace, perché tra poco sarà primavera. Però in quel momento lì, quando lei è sparita dietro la porta, ho pensato che quella piccola cosa inesistente non sarebbe mai più stata. Ho pensato al tennis che avevo abbandonato a 15 anni. Ho pensato a quella ragazza incontrata su un traghetto per la Sardegna 10 anni fa. Ho pensato all'amico perso quando ancora amici non eravamo. Ai no e agli addii detti prima ancora di iniziare qualsiasi cosa si trattasse di iniziare. Poi Ciccio invece ha detto la frase magica, quella che parlava non della fine assoluta, ma di quella parziale. Ha detto che era l'una, che bisognava andare a mangiare. Abbiamo ripulito il bancone, distribuito gli ultimi salatini e siamo andati a pranzo. E mentre uscivo da quel posto ho pensato che tra tutte le cose che stavo finendo c'era anche il mese nei panni di un'altra persona. Una cosa che avrebbero dovuto provare tutti. Per un mese, alzarsi la mattina, andare in un posto che non è il tuo, fare delle cose che non ti appartengono e fare finta di essere un altro. Per tutta la vita no, ma per un mese tutti dovrebbero provarci. Sono un sacco di cose che abbiamo lasciato incompiute nella nostra vita, alcune ce ne pentiamo e di altre no. Se vi è capitato magari in questi giorni di rendervi conto che quella roba l'avevate iniziata e non l'avete finita, qualsiasi cosa fosse, che fosse un lavoro, che fosse una relazione, che fosse un'amicizia, che fosse un corso, moltissimi cominciano corsi e li lasciano a metà, la palestra, tutta questa roba qua. 800240024 349-238-6666. Giorgio mi manda addirittura una lista delle cose lasciate incompiute. Alla ricerca del tempo perduto, il nome della rosa, e qui siamo ai libri, puzzle van goghiano da 1000 pezzi, almeno 3 di treni diverse, tessere da 10 ingressi alla piscina per nuoto libero, tutti i libri che ho iniziato a scrivere, il corso di portoghese che ho iniziato e non ho mai terminato, e poi invece 349-238-6666, ho lasciato incompiuto il successo, in tutto ciò che ho fatto ho lasciato il successo alle mie spalle, sento di averlo tra le mie dita ma quanta fatica per arrivarci. Lorenzo, ho lasciato, sì, infatti Lorenzo è bello suo, bello carico. Quanto successo hai avuto, Lorenzo? Per caso giri in Porsche e hai fatto un anno di carcere? No, mi sa che non era loro. Non si chiamava Lorenzo quel tizio che aveva patteggiato. No, non aveva neanche patteggiato. Poi semplicemente si era preso il condono, come si chiama. Ho lasciato incompiuto il primo anno, il mio primo dipinto a olio, con le continue e costanti derisioni del mio maestro. C'è sempre tempo, no? Ecco, vuoi sapere la verità? Penso di no. Penso che non ci sia tempo. Penso che se lasci una roba a metà non la finisci più. Ed è per questo che vorrei parlare in particolar modo con una persona che mi ha scritto questo messaggio. Ho lasciato il monastero per una ragazza di cui mi ero innamorato, ma con la quale non sono mai riuscito ad uscire. Pronto, Fabrizio? Pronto. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, grazie per essere qui innanzitutto. Mi racconti un po' meglio questa storia? Velocemente, niente, io ho preso la decisione di entrare in monastero forse anche un po' troppo presto, a 15 anni circa. Ma ammazza, quanti anni hai adesso, Fabrizio? 38. Ah, quindi è mezza vita fa, esatto. E niente, a Basilica di Superga, a Torino, e niente, sono andato su, ho fatto un anno di, chiamiamo vita di monastero, con scuola all'esterno, e solo che noi appunto avevamo l'associazione dei ragazzi e tutto, e poi ospitavamo anche a gruppi di scout, di associazioni, eccetera. Non dirmi che era una scout, Fabrizio. Combinazione, era proprio una scout. Ti ricordi anche il suo totem? Il nome no, eh? No, mi ricordo che si chiamava, non lo so perché non ho mai più avuto modo e occasione di rivederla, Simona, nella quale appunto diverse volte sono venuti con diversi gruppi, lupetti, coccinelli, sì, via, sì, dicendo, sì. Nella quale abbiamo passato delle fantastiche serate a chiacchierare, a parlare, via dicendo, da quel momento lì ho preso la decisione che forse non era proprio quello che anelava. Senti, ma quindi quanto sei rimasto in monastero? Un anno e mezzo. Raccontami il momento in cui hai deciso che no, non era, perché mi pare che non ti è successa una roba tipo Azzo da Melk nel nome della rosa, no? È stata una roba platonica. Sì, no. Totalmente platonica. Quindi, in quel caso una persona, poi così giovane, cosa fai? Vai dal padre superiore? Sì, avevo il mio padre spirituale con il quale mi sono appunto confidato, con il quale lui diceva, ma guarda, sono cose che sono capitate a tutti, vi dicendo, l'importante è quello che vuoi tu veramente. E poi alla fine ho preso la decisione che niente, invece che fare il padre, forse la mia vita era più destinata a fare il papà. E adesso sei un papà, Fabrizio? E sono diventato un papà, esatto. E cosa fai nella vita? L'autotrasportatore. Ah, ok, quindi sei in viaggio in questo momento. Esatto. Fabrizio, grazie mille per la tua storia. Figurati, grazie a te. Ciao, buona giornata, ciao, grazie. Ciao. Adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo all'estero, è uno di quei posti che guardando capisci subito che puoi essere o negli Stati Uniti o in Australia, insomma un posto in cui si parla inglese per forza perché ci sono scritte in inglese, ma perché è uno di quei baracchini che vende gelati, bibite, oddio baracchini mica tanto, è proprio uno store che qua si vede solo l'ingresso, però tutte le immagini su una strada deserta in mezzo all'Ohio, al Wyoming probabilmente, o all'Australia. È un caseggiato molto semplice, ho scritto sopra Novara General Store, ci sono bibite, ci sono ice cream fatti a mano, insomma ho la sensazione che sia magari qualcuno che è partito dalla mia città ed è finito qui. Fabrizio D'Alonso, 44 anni, Novara, Australia occidentale, a sud di Perth, località Mandurah. Il destino mi ha ricordato il luogo dove purtroppo sarei dovuto tornare, ma per il momento io sono qui. Anche questa è una bella foto, radio24.it, la pagina Io sono qui. Tra l'altro, visto che ci siamo e parliamo della pagina della radio, tutti quelli che vogliono scaricarsi i podcast hanno diverse possibilità. Il primo è quello semplice di andare sul sito della radio, alla pagina podcast, e scaricarseli, oppure si possono abbonare a iTunes, la sorgente è la stessa e passano da lì, ed è più comodo semplicemente perché facendo l'abbonamento te li scarica più o meno automaticamente. E oltre a questo, io e Tiziano carichiamo quotidianamente sul sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui, il podcast e la puntata la potete sentire subito dopo che lo mio con i tacchetti e l'abito elegante l'ha caricata. Ed ormai è velocissimo, per cui passa mezz'ora, un'ora e mezza. Roberto dice un'ora e mezza più o meno, per le 6 è tutto a posto. 349-238-6666, ovviamente tutti hanno cose lasciate a metà e tutti hanno cose di cui, per cui più o meno provano rammarico. Non sono riuscito a finire il plastico della Valle dei Puffi, era molto carino. Ho fatto danza per 16 anni, al penultimo esame ho lasciato, visto che in realtà facevo questi esami ormai per abitudine e non perché desiderassi ballare. Case vissute a metà, oggi ho deciso di rimanere, si vedrà. Anch'io come te ho rinunciato a suonare la chitarra, ma mi sono fermato al giro di Do. Lorenzo, credo che siamo in molti a esserci fermati al giro di Do, sinceramente. Però Do, La minore, Re minore, Sol, Fa, Sol, lo sappiamo, credo. Ma Roberto, tu non suoni la chitarra? No, non c'è un tecnico musicista, sì. Nessuno, vabbè. Comunque credo che sia così. Do, La minore, Re minore, Sol, settima forse. Vabbè, dai, se ci avessi la chitarra, giuro, lo saprei fare. Facciamo così, perché mi è arrivato questo messaggio prima. La mia vita a Londra l'ho lasciata a metà. Sono tornata in Italia e adesso mi spiace. Pronto, Paola? Ciao, buonasera. Ciao, grazie mille per essere qui, Paola. Che cosa è successo a Londra o in Italia che ti ha fatto tornare? Beh, no, che cosa è successo a Londra? No, a Londra non è successo niente, ci ho vissuto 2 anni, ci sono stata molto bene. E poi si è posto il problema se rientrare in Italia oppure no, sono tanti anni fa. E nel frattempo avevamo deciso di avere un bambino, che poi è stata una bambina. E niente, molto difficile decidere. Che cosa facevi là? Scusa, cosa fai qua adesso? Allora, io allora e oggi qua a Firenze sono ricercatore in fisica. Quindi ero andata a lavorare in realtà a Oxford, però pendolavo su Londra. Uh-huh. E niente. Ma si può vivere facendo ricercatore in fisica in Italia nel 2011? Ottima domanda. Beh sì, si può vivere. È molto dura. Infatti uno dei motivi per cui mi dispiace essere tornata è che poi dopo sono passati tanti anni, l'Italia anche è un po' cambiata da questo punto di vista e quindi ho ripreso in considerazione l'ipotesi di andare in Inghilterra, dove ancora si lavora, il mio lavoro si fa meglio. Quindi pensi di tornare là adesso, Paola? Di nuovo? Diciamo, ci sto pensando seriamente, ora il problema è che i figli sono già abbastanza grandi. Quanti anni hai tu, Paola? 46. Esattamente, scusami, ricercatore in fisica, cioè di che cosa ti occupi in particolar modo? Ora ti faccio ridere. Ti prego. Dunque, io sono fisico teorico e mi occupo di computer quantistici. E per fare una parola buffa, teletrasporto. Ecco. Quindi mi piacerebbe teletrasportarmi a Londra. Ecco. Ma in che senso teletrasporto? Cioè, trasporto di dati? Davvero. Pronto, Paola? Sì, ci sono. Che tipo trasporto di che cosa, scusami? Allora, noi studiamo il trasporto di informazione quantistica, quindi è un'informazione un pochino più ricca di quella. Senti, posso chiederti una cosa? Non ti chiedo quanto guadagni qua e quanto guadagnavi là, dimmi solo la differenza di soldi. Che differenza c'è tra quello che guadagna qua un ricercatore e quello che guadagna a Londra? Dunque, la metà. La metà, perfetto, secco. Improvvisamente Io Sono Qui si è trasformato in Mebius. Grazie Paola, buona giornata. Anche a voi. Ciao, grazie. Ciao. Mi spiace Matteo, ma il campione di cose incompiute sono io. Non credo ci sia tutto un SMS per spiegarlo. Laurea specialistica alla Bocconi, mollata dopo 4 mesi. Stagio in una banca a Malta. Perché fare uno stage in una banca a Malta? Cioè, con tutto rispetto alle banche di Malta. Mollato dopo 5 mesi. Lavoro in una banca in Italia, mollato dopo 1 mese. Corso d'arrampicata, di chitarra, di piano, di tedesco, tutte lasciate a metà. Daniele, rimaniamo a Milano, andiamo da Gianluca. Pronto Gianluca? Sì, ciao Matteo. Ciao, grazie mille per essere qui. Gianluca, senti, a 16 anni andai a lavorare rinunciando agli studi. E poi cosa è successo? E niente, ho cominciato a lavorare perché la mia famiglia non ce la faceva, cioè diciamo che io non ce la facevo andare a studiare, sapendo che era difficile facendo i miei genitori. E quindi cosa si è messo a fare? Ho cominciato a fare l'apprendista, e dopodiché sono diventato operaio e poi ho preso la decisione di diventare artigiano elettricista, sono un tecnico. Scusa, diciamo. Perché è caduta proprio, ha sganciato mentre parlavi, un artigiano elettricista? Sì. Un tecnico specializzato nell'automazione adesso. Cioè quindi non sei un elettricista semplice? Esatto, cioè il vantaggio è quello perché è un campo che è un po' più, c'è meno concorrenza, diciamo così. Ok, non ho capito esattamente cosa fai, Gianluca, però io credo che, visto che mi hai scritto che hai finito di pagare il mutuo a 38 anni e il mutuo è un po' il riferimento per la vita di ognuno di noi, a questo punto direi che ce l'hai fatta, Gianluca. Sì, no, guarda, più che altro perché quando ho avuto una storia con una ragazza che i suoi genitori mi hanno fatto molto soffrire per il fatto che non ero del loro ceto, perché avevo lasciato gli studi. Ah, ok, ho capito. Se è questione classe, di tempo ho avuto la mia rivista. Classe sociale proprio. Lei ancora sta pagando quel maledetto mutuo. Ciao Gianluca. No, lei non è ancora aperto, penso, quindi. Ma lei non ce l'ha bisogno, lo pagano i genitori. Quello può darsi. Ciao Gianluca, diciamo grazie che... mille. Te, ciao. Ciao, grazie. Elena mi ha scritto: avevo un'amica incinta, volevo fare un golfino per il suo figlio. Il golfino è a buon punto, ma il figlio ha 11 anni. Come tempistica, Elena, direi che ci siamo. Più che altro devi semplicemente allargare la taglia. Volevo concludere oggi leggendovi invece un messaggio che mi è arrivato sempre su Facebook, che parla di cose lasciate a metà, però abbandonate anche con una certa serenità. Parla di Lana, di Maglia e di una nonna. Quando ero piccola passavo molto tempo con mia nonna. Donna d'altri tempi, sapeva cucire, fare maglia, a uncinetto, sapeva cucinare, poteva ricavare un paio di scarpe da un panno in disuso. Così pazientemente cercava di insegnarmi i rudimenti della maglia. Due piccoli ferri rosa e un lunghissimo gomitolo di lana grossa, per non perdere i punti. Il fatto è che ad un tratto della mia vita scompaiono completamente i ricordi dei ferri e dei molteplici lavoretti tutti lasciati a metà, saturi di voragini più profonde di un vulcano. Così, 20 anni più tardi, in attesa di mia figlia, mi sono detta: perché no? È il momento perfetto per colmare questo vuoto. Mia nonna, santa donna, ha ritirato fuori i vecchi ferri e ho il sospetto anche lo stesso lunghissimo gomitolo di lana grossa. Dopo svariati tentativi, molteplici imprecazioni e santi che piovevano in salotto a targhe alterne, ho deciso di lasciare l'incompiuto così, come stava. Ricordo però ancora le parole di mia nonna, che diceva: non è colpa tua, tesoro, è solo che hai due mani sinistre. Il brevetto da paracadutista, anche perché me la facevo sotto, l'ho lasciato a metà. Giovanni, figurati, parli con uno che praticamente è svenuto. Il pendolo di Foucault, la pagina 36. Ora sono al cimitero di Praga. Ce la farò nell'impresa? Oscar, non lo so. Poi, allora, il giro di Do mi ricorda Laura Faggin, che è Do, La minore, Re minore, Sol settima. Mi scrivono che i salatini col Würstel sono i più buoni del mondo. Questo, diciamo, ognuno c'ha i suoi gusti. Però vorrei chiudere la puntata di oggi delle cose lasciate a metà con un messaggio di una persona che praticamente è partita a metà e l'ha finito. Lella, finire l'università a 47 anni, due figli e una famiglia. Io l'ho fatto. Grazie a te, grazie a Roberto Scaltritti, a Laura Faggin e a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?